Senti, è vero come dice As, come scrive As, che è Batista che sta portando il Titanic dell'Argentina verso l'iceberg, o ci sono altri motivi, altri colpevoli per questo inizio molto deludente della selezione in Coppa America? Ma guarda, io sono convinto che Batista abbia delle responsabilità abbastanza nette, nel senso che le indicazioni che sono emerse dalle prime due partite sono piuttosto chiare. Il modulo che lui ha scelto per questa Argentina non è quello adatto, manca un vero e proprio centravanti, manca profondità a questa squadra, mancano anche delle dinamiche diverse secondo me in mezzo al campo. Però di sicuro Batista non è l'unico colpevole. Io credo che il rendimento di certi giocatori sia abbastanza indicativo di come questa squadra si esprima al di sotto delle proprie potenzialità. E non voglio parlare del solo Messi, perché il tiro al bersaglio verso Messi sembra essere sport nazionale in Argentina da qualche tempo. Messi sicuramente è diverso rispetto a quello del Barcellona, però io non credo che lui non senta la camisetta, come dicono da quelle parti. Ci sono delle altre tipi di problematiche. E poi in tutto questo discorso vorrei inserire anche l'aspetto della progettualità della Federazione Argentina e del suo leader massimo, Don Julio Grondona. Di sicuro non credo che il calcio argentino sia stato pianificato nel migliore dei modi, ma non dico per questa Coppa America, dico per gli ultimi, diciamo anche 10 anni, perché di sicuro la pianificazione di quello che era stato il quadriennio che portava ad un mondiale importantissimo come quello del 2010 non era stata una pianificazione particolarmente illuminata.